Con Senit, direttrice del Queer Infection Lab a Roma, allo Sparwasser, il 28 settembre. Senit, ben trovata. Ci Ciao, grazie, grazie a voi. racconti? Allora, sì, dunque, la Queer Infection è una sezione del Festival Genderotica, che è l'unica sezione che rimane in piedi in attesa che Genderotica trovi i fondi per ripartire alla grande. È il secondo anno che facciamo Queer Infection come evento a sé stante. Quest'anno sarà dal 28 al 30 settembre allo Sparwasser, ma anche al Club 55, che ospiterà alcuni dei workshop. E che dire, io non la volevo fare la Queer Infection quest'anno perché è un appuntamento gravoso, però c'è una necessità che sento vera in momenti che trovo particolarmente cupi e particolarmente violenti, di non abbassare la guardia, di tenere alta la voce e di creare una possibile narrazione di altri mondi e di altre letture della realtà. La Queer Infection Lab quest'anno si espone, cioè, proprio al concetto di transizione di corpi, movimento, quindi vuol dire tra i generi, ma anche tra le terre, i paesi e nello spazio, quindi il corpo transgenere, transculturale, transfrontaliero, un corpo in movimento. E la cosa interessante è che avremo artisti provenienti da molte parti del mondo, come tradizione di Genderotica e della Queer Infection Lab prima, che presentano opere spesso in anteprima assoluta, ma provenienti anche da angoli del mondo con cui finora semplicemente non eravamo riusciti a dialogare. Questo vuol dire Algeria, Tunisia, Cuba, Cile, Brasile, Colombia, e questo mi fa estremamente felice. Come sarà articolata? Il festival si apre a diversi linguaggi espressivi, quindi ci saranno cortometraggi, documentari, performance, arte figurativa, laboratori. E ogni giorno delle 3 giornate del festival potremo trovare un po' tutto questo. Lo spirito lab viene proprio dall'idea di incontrarsi in maniera laboratoriale tra artisti, curatori, pubblico, persone che hanno voglia di ragionare in una lettura critica queer, per mettersi in gioco e cooperare. Può essere la presentazione di un momento di un lavoro di work in progress, può essere un momento di restituzione su un percorso di ricerca che si sta facendo, ma è anche un momento di incontro tra artisti. Ad esempio, non so, abbiamo Eva De Adamo, che è già stata con noi l'anno scorso, che propone una cerimonia laica in memoria di tutte le persone transessuali uccise per transfobia, e che si mette in contatto con una danzatrice romana su cui lavoreranno insieme in quei giorni per presentare questa performance che nasce all'interno della Queer Infection Lab. Ok. Tra eventi ed opere, quanti sono gli appuntamenti? Guarda, sono circa una trentina di artisti, e il calendario è abbastanza fitto, si comincia il venerdì 28 con un workshop di Vogue, perché il Vogue, prima di diventare il fenomeno glamour mondiale grazie a Madonna, era una danza e un linguaggio molto codificato dell'underground e delle periferie, delle Harlem negli New York degli anni 70-80, quindi qualcosa che riguardava la ghettizzazione, la marginalizzazione, gli immigrati, i trans, le comunità omosessuali. Sarà un workshop molto interessante dove apprendere le basi di questa danza. Poi ci sarà l'apertura con la presentazione dell'arte figurativa. Andremo avanti con uno spettacolo di Rimo Montero, che appunto oltre a fare il workshop di Vogue presenterà anche un suo lavoro sulle streghe, sulla stregoneria, e avremo concerti live, avremo drag comedy, avremo sabato, ci sarò anche io sul palco insieme a 2 artiste romane che sono Pub, Shimmering Light, una drag king e un artista di burlesque, per fare il Victoria Party, che è una festa che ritorna dopo anni per liberare la drag queen intrappolata nella vostra vagina. Allora, ricordiamo il secondo appuntamento con Queer Infection Lab a Roma allo Sparwasser dal 28 al 30 settembre. Senit, Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Senit. Senit, in conclusione ci lasci anche tutti i riferimenti web? Come no, allora c'è una pagina Facebook che si chiama Genderotica Continuazione di Arte Queer e lì già trovate tutti gli aggiornamenti e i dettagli di tutto il programma. C'è l'evento Facebook che si chiama proprio Queer Infection Lab e abbiamo anche un media partner che è Urban Mirror e sul suo sito trovate tutti gli aggiornamenti, le interviste che verranno fatte gli artisti, i video, eccetera, eccetera. Ciao e a presto! Grazie, vi aspettiamo. Ciao. Ciao.